cosa funziona. Allora, diciamo, è un processo di trasformazione dall'umano al postumano. Allora, è impossibile capire come siamo diventati o come stiamo diventando postumani se non sappiamo da dove siamo partiti. Voi non lo potete sapere da dove siamo partiti, perché voi siete già tutti, con poche eccezioni, purtroppo. Alcuni di noi, io e pochi di voi, siamo nati uomini e stiamo diventando post-uomini adesso, ma la gran parte di voi invece è già nata post-umana. Non c'è, nello stesso modo in cui c'è nella nostra esperienza di persone nate verso la metà, nel mio caso prima della metà del secolo scorso, o poco dopo la metà, insomma, non c'è nella vostra esperienza l'integralità e la relativa purezza della condizione umana. E allora perché faccio ricorso a Foucault? Perché Michel Foucault, in un libro molto importante per la cultura del Novecento, che si chiama Les mots et les choses, che si traduce con Le parole e le cose, ha raccontato come è nato l'uomo. Allora, l'uomo non è nato, o perlomeno l'uomo nel senso che adesso dovremmo cercare di capire, non è nato, come vi ho detto la volta scorsa, tra 1,5 milioni e 200,000 anni fa. Tra 1,5 milioni e 200,000 anni fa è nata l'entità biologica, la specie biologica definita come Homo sapiens. Ma il concetto di umanità, di uomo, come è stato elaborato dalla cultura moderna, è nato soltanto fra il 700 e l'800, tra la fine del 700 e gli inizi dell'800, come effetto di una rivoluzione epistemologica che Michel Foucault descrive benissimo, anche se in modo non propriamente semplice direi, ma molto accurato, in questo libro Le parole e le cose. Come molte delle cose del sapere umano, i concetti non nascono quando, va bene, insomma, all'equivoco ci arriveremo dopo. Come molti altri concetti del sapere umano, il concetto di uomo nasce per effetto di un processo culturale, e i processi culturali hanno questa caratteristica, che gli oggetti dei processi culturali nascono quando si costruisce un sapere in grado di parlarne. Non esistono prima. È un'illusione che ci sia qualche cosa di già dato, di astratto, di esistente, e che noi applichiamo il nostro sapere a qualcosa che esiste. Quello che esiste indipendentemente da noi è quello che Kant chiamava il noumeno, che sicuramente c'è. Noi lo possiamo chiamare il reale o la realtà, anche se c'è un certo signore chiamato Jacques Lacan che ha rimescolato le cose in modo tale che è difficile usare questo concetto di reale. Io però lo userò in qualche modo, per non dire noumeno, che sembra una parolaccia, E se uno non ha studiato un po' Kant, non può. Allora, la realtà, c'è qualcosa che si chiama la realtà, ma la realtà in quanto tale non è oggetto di conoscenza. Noi non sappiamo che cazzo sia la realtà. Noi non sappiamo niente della realtà. Noi sappiamo solo ciò che appare in certe superfici, in una successione di superfici che vanno dal reale a noi e che ci sono accessibili, perché noi abbiamo una dotazione biologica e una trasformazione di questa dotazione biologica in strumenti culturali che ci permette di accedere a queste superfici. È del tutto comprensibile e naturale che una specie arrogante e presuntuosa come la nostra specie, noi esseri umani, scambiamo queste superfici per la realtà. Non lo dico nel senso in cui lo diceva Platone 2500 anni fa, che noi saremmo, Platone raccontò questo mito e disse: gli esseri umani sono come dei prigionieri in una caverna, incatenati con la faccia rivolta contro il muro, e possono vedere solo il muro e non possono voltare la testa, guardano solo il muro, e fuori, dietro di loro, fuori della caverna arde un grande fuoco, e tra il fuoco e l'imboccatura della caverna passano altri esseri umani che sono amici o complici dei loro carcerieri e che fanno delle cose, parlano, danzano, e gli esseri umani, noi, cioè noi prigionieri dentro la caverna, guardiamo le ombre che il fuoco proietta sulla, diciamo, parete della caverna, e siccome non ci possiamo muovere, pensiamo che quelle ombre siano la realtà. Ma le ombre non sono la realtà, dice Platone, la realtà sta fuori, e così, dice Platone, la realtà non è il mondo sensibile, ciò che noi cogliamo con i nostri sensi, cioè la vera realtà, dice, come dice Platone, è un mondo diverso, un mondo lontano, un mondo che sta oltre Urano, quindi iperuranio, che sta oltre, che sta al di fuori del mondo conosciuto, che è un mondo di pure essenze e di pure idee, è il mondo delle idee, l'iperuranio. Allora, io non uso il termine realtà nel senso in cui lo usa Platone. Perché? Perché Platone in realtà è stato il primo, il più illustre, il più intelligente, il più ammirevole, il più bravo, però è stato la più illustre vittima dell'equivoco linguistico. Cioè, lui ha trasformato la nostra produzione linguistica, cioè i nostri discorsi sul mondo, e ciò a cui i nostri discorsi sul mondo potrebbero rimandare, da una realtà linguistica l'ha trasformata in una realtà esistente, consistente al di fuori di noi, ce l'ha contrapposta, e ha la vera differenza tra Platone e Kant, che Kant spiega che il noumeno è inconoscibile, invece Platone dice che il mondo delle idee è conoscibile. La nostra ragione, la nostra, questa bellissima facoltà che noi abbiamo con l'intelletto, che è una facoltà linguistica, è molto più modesta di come la pensava Platone. Poi si possono costruire un sacco di robe con il linguaggio, certo, si può costruire tutta la geometria di Euclide, tutto l'enorme, sterminato ormai edificio della matematica che negli ultimi quattro secoli è andato ben oltre la geometria di Euclide, gli elementi di Euclide. Possiamo costruire filosofia, possiamo costruire opere d'arte, possiamo costruire tutto quello che vogliamo con il linguaggio, ma la consistenza ontologica di tutto ciò, il loro carattere di essere, di essenzialità, è molto dubbio. Come facciamo? Ci vuole una bella dose di presunzione e di arroganza nel credere che le più sfrenate costruzioni della nostra immaginazione abbiano una realtà? Chi ce lo garantisce? No, non nessuno, noi ci autogarantiamo, noi facciamo come il barone di Munchausen, che sta nella palude e per tirarsi fuori dalla palude si afferra per il codino e dice lui si tira su. Un logico moravo di lingua tedesca negli anni 30 del Novecento, il signor Kurt Gödel, dimostrò che questa operazione è impossibile, anche nel campo che a noi sembra più oggettivo, certo, sicuro, che è quello della scienza più astratta e meno descrittiva di tutte, ma più solida, mi pare, che è la matematica. Noi abbiamo continuamente l'illusione, entro certi limiti è giusto che ce l'abbiamo, perché se in qualche momento non pensassimo questo non potremmo neanche parlare, ma abbiamo sempre l'illusione che il linguaggio descriva perfettamente il mondo. Se anche non abbiamo questa illusione, pensiamo comunque che la sintassi del nostro linguaggio, o almeno se non del linguaggio naturale, dei linguaggi artificiali che noi costruiamo, per esempio la matematica. Nella matematica noi siamo irragionevolmente sicuri che la sintassi coincida con la semantica. Capite quello che voglio dire? Che tutto ciò che noi siamo in grado di dimostrare correttamente da un punto di vista del ragionamento matematico sia anche una verità. Tutto ciò che noi riusciamo a dimostrare correttamente con il linguaggio matematico, sintassi, sia anche una verità semantica, cioè sia qualcosa di vero. E inversamente, che tutto ciò che è vero, tutte le proposizioni, per esempio, della matematica che sono vere, siano anche dimostrabili. Bene, il signor Kurt Gödel, si scrive così. Penso sempre a voi che prendiate appunti e che magari non sapete il tedesco e quindi non sapete che la O con i due puntini sopra si pronuncia Kurt Gödel. Il signor Kurt Gödel dimostrò fra il 1933 e il 1935 due fondamentali teoremi della logica matematica, secondo i quali questa coincidenza fra sintassi e semantica è impossibile, strutturalmente impossibile, non ci siamo ancora arrivati prima o poi, no, non ci avevo mai, è impossibile arrivarci. Kurt Gödel dimostrò, oltre ogni ragionevole dubbio, che la semantica eccede la sintassi. La sintassi della matematica, addirittura della aritmetica, cioè di una qualunque struttura formalizzata che contempli almeno un insieme infinito, l'insieme dei numeri naturali, che è il fondamento dell'aritmetica, se voi costruite un sistema logico in grado di padroneggiare, di cavarsela con un insieme infinito, l'insieme infinito più semplice, un insieme infinitino del cazzo, proprio 1, 2, 3, 4, se tutti ci arriviamo, bene. Questo insieme infinito così banale, così stupido e così apparentemente innocuo, nasconde dentro di sé una trappola mortale. La semantica delle affermazioni su un insieme infinito di questo genere eccederà per forza di cose necessariamente la sua sintassi, cioè esisteranno e Gödel la fece vedere. Gödel costruì un'affermazione vera a proposito dei numeri che non è dimostrabile. Noi siamo sicuri che sia vera perché con un trucco geniale il signor Kurt Gödel, che nei tardi anni della sua vita credette addirittura di aver dimostrato l'esistenza di Dio, e ovviamente subito dopo morì pazzo, io non voglio dire, però sta questo è quello che successe, dimostrò l'esistenza di Dio e morì pazzo. Era molto amico di Albert Einstein, perché li trovarono insieme a Princeton dopo veramente colpirono tutte le persone intelligenti dalla Germania quando arrivò il nazismo, e Einstein anche, perché Heidegger non era ebreo, ma Einstein sì. E quindi si trovarono entrambi all'Università di Princeton, in realtà ci sono molte foto che li ritraggono insieme, le due facce, pazze tutte e due, perché Einstein non morì pazzo, ma... però era un pacifista integrale, Einstein è convinto, sapete che Einstein si ritrasse inorridito quando dalle sue teorie, da ciò che lui aveva scoperto, si delineò la possibilità di costruire una bomba e gli Stati Uniti decisero di costruire questa bomba e fecero appello a tutti gli scienziati, gran parte, la maggior parte degli scienziati che stavano negli Stati Uniti in quel periodo partecipò a questo progetto che fu il progetto Manhattan e che determinò uno dei crimini più sconvolgenti dell'umanità, di natura diversa evidentemente dallo sterminio del popolo ebraico deciso dai nazisti, ma io credo altrettanto riprovevole come le due bombe atomiche dell'8 e del 9 agosto del 45 su Hiroshima e Nagasaki. Ebbene, Einstein pubblicamente si dissociò da questo progetto e fece un appello che ebbe poco seguito fra i suoi colleghi scienziati perché nessuno di essi partecipasse al progetto Manhattan. Questa è una materia opinabile, come tutte le cose che dico io, naturalmente, ma questa in modo particolare per il fatto se quella bomba lì dovesse essere sganciata o no. Io non lo so se per la vostra generazione la presenza di quella bomba sia ancora così importante come lo è stata per la nostra. Io sono nato un anno prima che sganciassero quella bomba e cioè era impossibile per noi che eravamo giovani negli anni 50 e 60 del secolo scorso non essere tormentati dal fatto di essere nati più o meno prima, dopo, non importa quando, però perché era una cosa che e molti di noi riluttavano all'idea di poter descrivere questa cosa come un semplice gesto di follia o come una esattamente come per la spiegazione del nazismo. La spiegazione più semplice, quella che vi danno ancora adesso a voi oggi del nazismo, è che si sia trattato di una sorta di deviazione da, no? Un regime di matti. Esattamente come il nazismo fu semplicemente una delle varianti della gestione politica di una società derivate dalle strutture capitalistiche della nostra società, esattamente come la variante democratica. Il nazismo non è una cosa, una follia, è una delle possibilità che storicamente ha assunto il capitalismo nel XX secolo. E la costruzione e l'uso della bomba atomica, che è l'arma più incredibilmente feroce e ingestibile che l'uomo abbia mai prodotto nelle poche centinaia di miliardi di anni della sua esistenza, è la stessa cosa. È l'espressione, alcuni dicono, della volontà di potenza della scienza, ma chi dice così non sa bene cosa sia la volontà di potenza, perché non c'è nessuna volontà di potenza nella bomba atomica, c'è una volontà di annientamento e non di potenza. La volontà di potenza è qualcosa che bisogna sottrarre alla retorica della destra, perché volontà di potenza non vuol dire volontà di potere, non vuol dire volontà di opprimere, vuol dire volontà di esplicare le potenzialità e le possibilità degli esseri umani, e così l'aveva intesa Friedrich Nietzsche, e non come quella stronza di sua sorella cercò di fargli dire dopo che lui era già morto, costruendo un finto libro con il titolo appunto La volontà onnipotente, che però costruì il mito che Nietzsche fosse l'antesignano del nazismo, mentre non c'è nulla di più distante della volgarità nazista dal pensiero di Nietzsche. Tanto il nazismo quanto la bomba atomica, certo sono anch'essi figli, da un certo punto di vista, come tutto è figlio negli esseri umani, della volontà di potenza. La volontà di potenza può anche pervertirsi fino al punto da portare alla luce le possibilità negative degli esseri umani. Certo che si può fare, è stato fatto, si può fare e si farà, probabilmente si continuerà a fare, ma è consolatorio pensare che ci sia qualcosa chiamato natura umana che abbia delle leggi belle, conciliatrici, armoniose, armoniche, e che ogni tanto qualcuno devia, perché sono dei matti, si devia da una strada luminosa. La storia degli esseri umani, la storia dell'umanità è fatta così, non è fatta... Bisogna avere il coraggio intellettuale di affrontare quelli che i romanzieri chiamano i nostri lati oscuri, insomma, che sono semplicemente il risultato del fatto che noi siamo esseri fondamentalmente aperti alla possibilità, che abbiamo una riserva di possibile maggiore di ogni altra specie animale esistente su questo pianeta. Ed è l'unica cosa che ci distingue davvero dalle altre specie animali. Che abbiamo costruito uno strumento di questo possibile, che è il linguaggio, e che questo linguaggio ha una funzione, e che questo linguaggio, allora no, diciamolo così, perché sennò sembra veramente che ci siamo inventati il linguaggio chissà per quale. Il linguaggio è semplicemente un potentissimo strumento di sopravvivenza per una specie sociale. È lo strumento più potente che ci sia per organizzare una società, molto più potente di quella dei dispositivi biochimici che usano per esempio gli stati sociali, che hanno società perfette, molto più funzionanti della nostra, ma molto meno utili. E infatti se pigliate una formica rossa dell'Europa o dell'Africa e la portate nel Sud America, la formica rossa crepa, perché nel Sud America non trova le stesse condizioni ambientali ed ecologiche che trova nelle zone interne e muore. I formicai non si organizzano più, non si trapiantano, non riescono a fare, tutte le specie animali sono legate a una nicchia. E quando una società animale è basata su meccanismi principalmente biochimici, trasmissione di sostanze chimiche dall'una all'altra, o anche simboliche, ma comportamenti molto definiti, con un passaggio breve tra la struttura genetica dell'animale, il DNA e il suo output, il suo comportamento. Quando questo passaggio è molto breve, è molto corto, quando la filiera tra la determinante biologica e il comportamento è breve, l'animale non ha la possibilità di vivere se non in condizioni ambientali molto precise, in una nicchia ecologica. Noi esseri umani non siamo così perché esiste anche in noi, come ovvio, un cammino che porta dal nostro DNA ai nostri comportamenti, ma l'antropologia e la storia della cultura, la storia e l'indagine storica sugli esseri umani ci mostrano che il ventaglio di questi comportamenti è straordinariamente variabile, straordinariamente ampio, e quindi questo vuol dire che il cammino, l'insieme di passaggi, il filo, la concatenazione di cause e di effetti che dalla struttura del nostro DNA arrivano fino all'insieme dei comportamenti è molto più vasto, è molto più ampio di quello che avviene nelle altre specie animali, anche nelle specie di mammiferi, anche nei mammiferi più complessi e più vicini a noi. E quindi questo è questa. Però, ciò nonostante, al fondo c'è sempre una determinante biologica. Poi i sociologi possono giustamente insistere sul fatto che non c'è una spiegazione immediatamente biologica dei fatti sociali, quindi che i fatti sociali sono una delle espressioni della estrema variabilità di soluzioni che l'uomo ha per soddisfare i propri bisogni, ma al fondo questi bisogni ci sono comunque. E allora uno degli equivoci che spesso si hanno quando si studia il linguaggio è proprio quello di credere che il linguaggio abbia essenzialmente una funzione rappresentativa, cioè che la funzione rappresentativa, o se preferite in una forma più ingenua e più rozza, che la funzione descrittiva del linguaggio sia quella prioritaria. Invece non è così. L'origine del linguaggio, se il linguaggio ha potuto avere così tanto successo, ha potuto essere così centrale per la specie umana, è perché è stato primariamente uno strumento di adattamento biologico, cioè ha consentito alla specie Homo sapiens di organizzare dei gruppi tali da poter superare il determinismo ambientale. Tutto lì. Tutto lì. E quindi, con buona pace di Bossi e di La Russa, siamo nati in Africa, siamo nati neri, neri, caponi e tutte queste robe qua. Siamo nati lì. E poi Homo sapiens si è sparso per il mondo, per tutto il mondo. Però se si è sparso per il mondo è stato perché stava costruendo o aveva già costruito questo strumento linguistico che gli consentiva una duttilità di risposta ambientale e di organizzazione che poteva, e quindi che per questo gente che era gente come noi, nata in Africa al caldo, ballando la samba, e si è voluto trasferire al Po, sulle banchine gelate dell'Artico o nelle selve del Canada o sulle rive dei fiumi dell'Europa. Non avremmo potuto farlo se fossimo stati animali non linguistici. Ma a questo serve il linguaggio, fondamentalmente, soltanto che, e questo il signor Ratzinger non ce lo sa spiegare, cioè se davvero ci fosse stato un progetto divino o di altro tipo dietro alla comparsa dell'uomo sulla faccia della Terra, bisognerebbe dire che questo signor Dio, autore di questo, come dire, progetto, è uno che ha dei soldi da buttare via, perché avrebbe costruito uno strumento così più ricco di possibilità di quelle a cui i immediatamente rispondeva, cioè allora butti via i soldi, cioè, allora vuol dire che cazzo, gli mandiamo Tremonti che gli taglia il bilancio, perché, insomma, perché il linguaggio obiettivamente, allora attenzione, un minimo di gioco tra i sistemi biologici e diciamo i problemi a cui essi si rispondono c'è anche in altre specie, non solo in noi. Non abbiamo l'esclusività del possibile noi esseri umani, però è vero che ne abbiamo molta di più di altre specie animali, molta di più. Il linguaggio ha, come dire, una volta diciamo costruito, una volta impiantata questa funzione nel nostro cervello, questa capacità di costruire strutture significanti fondate sul puro suono, di costruire strutture significanti, come dire, dedicate, che sono servite allo scopo di organizzare più efficacemente e in modo più ricco i rapporti tra gli esseri umani per il raggiungimento di certi scopi comuni, che ne so, per esempio per cacciare i mammut o per organizzare la raccolta delle bacche nel momento opportuno, tutte le cose che facevano i nostri prima della agricoltura, poi l'agricoltura, poi l'industria, poi tutto quello che è venuto dopo, insomma, tutto si basa sul linguaggio. Ma da un certo punto di vista, cioè, come dire, detto con una formula, se per organizzare meglio la mia società e le mie condizioni di sopravvivenza mi devo dotare di qualcosa chiamato funzione simbolica, la funzione simbolica automaticamente eccederà la soddisfazione immediata di quei bisogni, cioè i bisogni elementari di organizzazione di un gruppo. E quindi creerà questa possibilità di descrizione, di raddoppiamento, di invenzione, di dire bugie. Nessun animale può dire bugie, nessun animale può mentire. Gli animali domestici ogni tanto ci provano, sì, i gatti soprattutto, ma perché vivono con noi, perché hanno preso i gatti selvatici, no? I trucchi che usano le specie animali allo stato selvaggio non sono bugie, non sono menzogne, sono strategie per moltiplicare l'efficacia di, diciamo, di certe cose, ma sono largamente biologiche, come le capacità mimetiche di certi uccelli o di certi mammiferi o di certi rettili principalmente, no? Il camaleonte non lo fa mica apposta lui, non si mette una tuta mimetica come facciamo noi per mimetizzarci nella boscaglia. Lo fa perché, ma non mente il camaleonte. Noi possiamo mentire perché la costruzione di uno strumento così forte, che si basa però su una specie di accordo, no? Il linguaggio si basa sull'accordo della gente. Se io adesso parlo e voi mi capite, e voi avete la libertà di pensare che io stia dicendo fregnacce da un'ora e mezzo a questa parte, ma in qualche modo siete costretti a farmi il credito su una certa mia sincerità, perché dovrei dirvi tanto sì, potrei ovviamente fare parte di un terribile complotto anticristiano e filo terrorista, questo, vabbè, certamente potrebbe essere così, è ovvio, quindi potrei tentare, adesso vediamo cosa faccio, però insomma, è quello che molta gente pensa, certo, non dico di me solo, di tutta una categoria di cattivi maestri. È stato detto che è stata usata tutta una retorica del cazzo sulla storia dei cattivi maestri nell'Italia degli anni 70, quindi figurati un po'. Io sono uno degli ultimi, tra un po' moriamo tutti naturalmente, perché l'età è quella che è, quindi so, però scolastica ne hanno pochi altri, questo non si può mai sapere. Comunque, insomma, qualche maniera ci deve essere una sorta di presupposto di onestà. Voi fate sempre conto, ognuno di noi, non solo voi, anch'io quando parlo con gli altri, tutti facciamo conto, dice, beh, insomma, questo qui non dirà poi tante puttanate, cioè, o meglio, potrà dire delle puttanate, però le dice in modo sincero, le dice in modo... la scoperta di una menzogna, bugia in un altro essere umano, quando ci viene nascosta la verità o quando viene artatamente camuffata, noi siamo tutti colpiti, perché... Però, siamo colpiti, però se ci pensiamo sappiamo che è, come dire, che è una delle cose più positive queste che ha il linguaggio. Se noi non potessimo mentire, non potremmo neanche raccontare delle storie. Se non potessimo mentire, Dante non avrebbe potuto scrivere la Divina Commedia, Cervantes e Don Chisciotte, Omero che non è mai esistito, l'Iliade e l'Odissea, Omar Khayyam le sue poesie. Confucio i suoi analettica, basta. Non avrebbe nessuno, cioè la possibilità di usare il linguaggio a fini espressivi, puramente espressivi e svincolati dalle necessità immediate, è correlata alla capacità di mentire. Immaginarsi un altro mondo, immaginarsi una situazione e descriverla come se fosse vera è un analogo della menzogna. Solo che noi chiamiamo menzogna di solito, chiamiamo menzogna una costruzione fittizia che sia finalizzata ad ingannare il nostro interlocutore per dei fini moralmente riprovevoli, cioè per acquisire un rapporto di potere, una posizione di potere più forte nei confronti dell'interlocutore, o per nascondere una cattiveria, che abbiamo fatto un torto, che abbiamo fatto una cosa ingiusta, che abbiamo fatto nei suoi confronti. Ma a parte che anche questa descrizione della menzogna potrebbe funzionare altrettanto bene per la descrizione di un'opera letteraria. In fondo anche un'opera letteraria è l'invenzione di qualcuno, perché questo qualcuno scrive dei romanzi o delle poesie o delle opere teatrali, non potrebbe essere anche lui perché vuole acquistare una sorta di statuto privilegiato rispetto a noi esseri umani mortali, no, mortali pure lui, ma semplici, che non siamo capaci di fare come uno scrittore. Cioè, pensateci, è difficile dare una definizione di menzogna che separi radicalmente ciò che noi chiamiamo bugie da quelle che sono una serie di altre attività, una serie di altri prodotti dell'inventività linguistica che noi non consideriamo così negativi come la menzogna. Perché e questa difficoltà deriva dal fatto che il meccanismo di fondo è uguale. E qual è questo dispositivo di fondo, questa caratteristica, questa proprietà di fondo del linguaggio? È che il linguaggio è capace di raddoppiare il mondo senza che ci sia necessariamente una prova empirica e sensoriale di altro tipo rispetto alla stessa produzione linguistica di questa corrispondenza. Questa è la ragione per cui noi siamo convinti che il linguaggio descriva il mondo e abbia questo potere, così, no? Addirittura sino a pensare che possa essere sovrapposto al mondo senza nessuna sbavatura. È perché è perché noi siamo, insomma, detto in altri termini, è perché noi siamo abituati a credere alle produzioni linguistiche, che le produzioni linguistiche possono mentire. Se noi non avessimo questa, una volta Coleridge disse, il poeta romantico inglese disse che la condizione, insomma, disse che le opere d'arte, le opere di letteratura veramente riuscite sono quelle che realizzano nel proprio, diciamo, lettore la sospensione dell'incredulità. The suspension of disbelief. In realtà questa definizione, è una bella definizione, che questa definizione che Coleridge dà della letteratura potrebbe essere facilmente estesa a ogni produzione linguistica. Ogni produzione linguistica mira a suscitare nel destinatario, nell'interlocutore, una sospensione dell'incredulità. Se io non fossi a priori preventivamente disposto a credere a ciò che dice il mio interlocutore, non ci sarebbe comunicazione linguistica possibile. Ma ovviamente questo è la stessa condizione che può consentire al mio interlocutore di mentire. Attenzione, mentire non vuol dire non dire la verità, Io vi posso dire, la Cina ha 3.427.838 abitanti. Non è una menzogna, è che non lo so quanti abitanti abbia. Sparo un numero a caso e vi dico questa cosa, Sarà una sparata, non è una bugia. Naturalmente se io sapessi il numero esatto di abitanti della Cina, e lo sapessi perché magari sono paranoico e mi imparo a memoria il numero di abitanti della Cina, cretino che sono, giorno per giorno, e poi ve ne aggiungo, dico, poi ne aggiungo uno, perché, e lo faccio apposta, perché dico, adesso gli dico una cosa così, sbagliano al quiz della patente, per dire, allora questa è una bugia, quando uno altera qualche cosa che... Però anche qui, pensateci bene, è buona come descrizione di una menzogna? A volte uno crede di sapere la verità, Crede, dice, ma io sono convinto che il mio amico Michele è un mio amico, invece lui si scopa la mia fidanzata, mettiamo. No, scusa, mi scuso con tutti i Micheli presenti, possibili. Se io non so che Michele si scopa la mia fidanzata e incontro Franco e gli dico, guarda Michele com'è bravo, com'è onesto, un grande amico, eccetera, non è una bugia questa, perché io non lo so che Michele si scopa la mia fidanzata. Sono così bravi tutti e due questi stronzi che mi tengono nascosto tutto e io come un cretino continuo a credere che se Michele sia, invece è uno stronzo terribile. Ma non è che se dico che è una brava persona, non è una bugia questa, perché non è... Io non sto dicendo la con verità, ma perché io non la so la verità. E uno, se fossimo veramente radicali, potremmo addirittura pensare che nessuno di noi conosce davvero la verità, nessuna verità. E che quindi diciamo tutti bugie quando parliamo, mentiamo tutti. Perché parlare potrebbe essere fondamentalmente soltanto mentire. Da questa cosa ci sono vari modi di uscire, naturalmente il più... Da questo possibile paradosso, insomma, naturalmente il modo migliore di uscire da questo, come dire, paradosso, però, è come sempre smetterla di pensare che il linguaggio serva fondamentalmente per dire cose vere o cose false. Il linguaggio serve fondamentalmente, è uno dei meccanismi che noi abbiamo, uno dei dispositivi che noi, di cui noi disponiamo e dei più potenti per indicare, indirizzare, proporre nei casi, diciamo, migliori, ordinare o imporre nei casi peggiori un certo comportamento alle altre persone. Il linguaggio serve fondamentalmente a questo, serve per far cambiare il comportamento delle persone. per far cambiare il comportamento o le condizioni del comportamento. Anche la mia, pensate, la mia produzione linguistica di questi incontri che facciamo, di queste lezioni. Voi potete pensare che io vi racconti delle cose, o vi dica come stanno le cose, o come io credo che stiano le cose. A parte che non è sempre vero, che io non so sempre come vanno le cose, quindi io mi limito semplicemente a dirvi quale percorso ho fatto per arrivare a certe ipotesi. Poi siete liberi di accettarle ovviamente o di rifiutarle, queste ipotesi. Però è vero che non è questo, neanche in questo caso, l'intenzione che io metto nei miei discorsi, non è quella, quindi né di descrivere il mondo né di descrivere la mia visione del mondo, è quella di indurre dentro ciascuno di voi un cambiamento, un riorientamento mentale nei confronti delle cose, sufficientemente ampio da lasciarvi, dal mio punto di vista, una grande varietà poi di comportamenti possibili. Però io sto cercando di, cioè questo è indubbio, cioè l'ex direttore dell'Accademia di Belle Arti, il professor Fernando De Filippi, che sosteneva l'anno scorso e quest'anno che io sobillo gli studenti, non aveva torto del tutto. Nel senso che in qualche modo, è vero, io cerco di cambiare la vostra mente, cerco di influire sulla, cerco di fare in modo che chi di voi abbia dei modi di pensare o delle strutture di pensiero inadeguate a mio parere, o che non vi consentono di sviluppare davvero tutte le vostre potenzialità, io cerco di dare un contributo perché vi si svegli questo qualche cosa in testa. Quindi probabilmente nella testa di De Filippi questo era sobillare, cioè la sua testa è chiaro che voleva dire altro, però da un certo punto di vista è vero, certo, non voglio mica negarlo, ma quindi vedete che anche in questo caso la mia produzione linguistica non è tesa a descrivere qualcosa di oggettivo nel mondo, ma a creare, e questo vale per qualunque, ognuno di noi, se ci pensate bene, quando parla, ha sempre in animo di fare qualcosa del genere. Ogni nostra produzione linguistica, anche quando sembra oggettiva, descrittiva, eccetera, in realtà è sempre performativa, cioè vuole sempre ottenere qualche risultato nella pratica o nelle condizioni per creare delle pratiche, che sono condizioni di solito mentali, quindi ovviamente anche esse, diciamo, linguistiche. Non è possibile una concezione totalmente autoreferenziale del linguaggio. E questo perché, dal punto di vista genealogico della sua storia, il linguaggio effettivamente ha una origine biologica, e tutte le facoltà biologiche sviluppate dagli esseri umani, dagli esseri, come dire, viventi, dai meno complicati ai più complicati, anche a livello della cellula, sono ex post, non ex ante, cioè dopo l'effetto, non prima, certo, ma sono degli strumenti più o meno validi, più o meno di maggiore o minore successo, per realizzare una migliore integrazione, una migliore performance nell'ambiente di questi esseri viventi. Qualsiasi cosa facciano gli esseri viventi, non perché ci sia un progetto, non perché nessuno vuole, nessun essere vivente, nessuna ameba ha nessuna volontà cosciente di sopravvivenza, ma perché ex post le amebe che sopravvivono sono quelle che hanno più doti, sono quelle che sono meglio dotate di altre per relazionarsi con l'ambiente. Se uno ha dei metodi, degli strumenti di relazione con l'ambiente troppo deboli, semplicemente non mangia, non scopa e quindi soccombe, muore lui e non trasmette le sue caratteristiche a nessuna progenie. Tutto lì. L'evoluzione biologica funziona così. Con buona pace di Ratzinger e dei creazionisti nordamericani, l'evoluzione biologica funziona così. Non c'è nessun cazzo di progetto, nessuno ci è mai venuto in mente, già facciamo, non facciamo niente, non facciamo nulla. Cioè tutto questo pone una serie di problemi, come è ovvio, perché siccome c'è il secondo principio della termodinamica che è innegabile e gli esseri viventi in qualche maniera sfidano il secondo principio della termodinamica perché tentano di realizzare dei sistemi con un guadagno energetico, non con una perdita, tutto questo evidentemente è in qualche maniera andrà spiegato, ma ovviamente la spiegazione dell'intelligent design, specialmente quando non c'è nessuno a cui noi possiamo imputare o diciamo ringraziare per questo intelligent design, è un po' del cazzo, insomma, non si regge in piedi, insomma, no? Quindi, ex post, ma se gli esseri umani hanno avuto così tanto successo per il momento, sulla faccia di questo pianeta, e se il linguaggio è la loro marchio distintivo, la cosa più importante che hanno di diverso dagli altri, è gioco forza a concludere che questo linguaggio abbia una funzione nella sopravvivenza così fortunata di questa specie. Homo sapiens. E soltanto se uno ha la teoria dell'intelligent design che può dire, ah no, ma c'è questa roba qui che è una bellissima facoltà che serve per fare l'arte, per fare la letteratura e per questa bellissima immaginazione umana, poi c'è qualcuno che dice, vabbè, ora si usa anche per... No, non è che, come dire, il linguaggio nasce con quella funzione lì e qualcuno lo usa come strumento di sopravvivenza o di ampliamento della presenza della specie Homo sapiens su questo pianeta. Fondamentalmente la sua funzione è questa, perché vuol dire che realizza un insieme di comportamenti che sono più efficienti, che sono più di successo degli esseri umani su questo pianeta, e però per la particolare natura di questo strumento, che non è uno strumento biologico unideterminato, ma è uno strumento biologico plurivoco ad ampio raggio e ad ampio spettro, insieme con la soddisfazione di questo obiettivo sempre nel senso non cosciente, ma di fatto, obiettivo di fatto, oltre alla realizzazione di questo obiettivo immediato, il linguaggio si porta quindi con sé una serie di altre cose. Adesso facciamo una pausa e poi parleremo della società dopo. Questa è la seconda lezione? No, per me. Sì, per te è la prima, ok. Sì, se studiamo la lezione Sheldon, sì. C'è qualche problema oppure? C'è un problema di che tipo? No, se c'era qualche problema il fatto che venissi per la prima volta, che ho iniziato a trovare. No, te puoi saltare tutte le lezioni che vuoi, cosa ti devo no. dire io? No, nel senso, ci sono delle regole che ci danno a noi per attribuire la firma di frequenza che dicono che se uno ha meno del 70% di frequenza io non vi posso dare la firma, io sarò più buono e ve la darò all'incirca anche se avete solo metà delle presenti, no, quindi una volta sola sarà un po' difficile che ci sia la cosa. No. Tu sei di Brera 1? Sei di cosa? Sì. È lì, lo so, non è colpa vostra. Sì, lo so. Mariani, sì, che intende stare i casi suoi, però siccome non me lo chiede a me, io ho già deciso qua di giovedì. Tu ci sei qua? Allora firma. Quelli che non hanno firmato, firmino, grazie. Thank you. volta che farò l'altro. Come poi due tu andiamo. Andiamo. Tu dove sei? Grazie, però. Volevo fare un bacio che sarà l'anno prossimo, però. Sul. Ma la parte della professoressa Giorgetti, che immagino che non la conosce. Comunque, né io conosco lei, quindi. Okay. Comunque, ma considerato Hans of. Hans of the Beck. Non la conosce neanche lei. Ulrich Beck, Hans. Hans scritto A. Hans so come è. O proprio senza H davanti, OP. OP. De Beck. De Beck. Mai sentito. Ma che cosa chi è? E tratta comunque il corpo postumano, solo che non si riuscita a vedere niente di suo, quindi non ho idea. Non so neanche io chi sia. È un testo che non conosco, ha scritto dei testi, non lo conosco, ma se lei... Ha tratto la galleria continua. Ma è un alchimista russitore. Non è uno da piccoli libri, con il corpo umano. Non è uno da piccoli libri, no, no, questa no, cosa. Comunque, da qui, mi chiedeva la professoressa Giorgetti, però per vedere anche c'è, da quello che ho fatto. Perché tu vuoi fare un materie sulla questione del corpo umano? No, io ho cominciato a ricordare tipo l'uomo, sapendo tre fagli, l'uomo a livello naturale, l'uomo passa la società uomo. Sì, attrattando la questione del lavoro e tutto quanto. Però non... Del lavoro? In che senso? No, perché io ho fatto Napoli con una cosa. Ciao. Vabbè, Napoli, io ho tirato una persona, non è più una persona, ma è una macchina. Ah, ho capito. Dai, sei quindi in senso romantico, cioè. Trattando proprio tutte le cose. No, il rapporto con la macchina è un po' più complesso, come lo dici tu, insomma. Ah, pensavo che volevo anche dei testi. Stavo parlando di testi. Mettere un po' di base su quello che stai dicendo. Vabbè, allora, sicuramente questo corso penso che ti serva, perché... Trattava la macchina della paranoia, parlava di... Sì, l'anno scorso. Forse due anni di fila l'ho fatto, sì. Adesso invece adesso uso il cyborg, quindi è più, uso il mio testo sul cyborg, quindi è più, sì, è più, come dire, è più aderente, inerente alle cose. Okay, cosa ne riparliamo fino a fine. Io questo back non lo so chi sia, però io non è che non mi occupo prevalentemente d'arte, quindi non parlare che uno che mi sia sentito, insomma. Comunque una bibliografia sul posto umano, comunque se vuoi te la posso dare, ma trovi già in parte alcuni dei libri che sono. Sì, quando vi darò la bibliografia integrale, ma comunque la cosa finita purtroppo non sta quasi nulla, perché hanno tutta la parte in più è stata tagliata, quindi cioè, ci sono solo i libri obbligatori. E quindi non ci sono i testi di riferimento che do anche, poi do un elenco di libri facoltativi, che però chi vuole approfondisce, capito? Va bene. Sì. Stampato questo. Che amore, sì. E ho provato a allora, il mio qual è? Ah, il mio è qua. Il suo sarebbe all'inizio, tra l'altro infatti ho fatto l'errore messo all'inizio perché? Questo, ma andrà bene. Ah, che invece va messo dopo? Sì, va messo subito dopo il suo e ho aggiunto prima del suo monologo il pezzettino dello studente. Brava. Che sì. No, io questo non lo metto perché mi sono dimenticato, io comunque parlo solo quello. Ora, io poi questo non è che lo leggo, lo faccio. Certo. Poi però mi sembra che l'ho letto e sono in circa 3 minuti. Una prova, quanto è lungo? Il video quanto che è lungo? Allora, escluso il teleracconto, escluso che poi Mod fa la canzone, escluso che mancano ancora un po' di video, durava 34 minuti, secondo me arriva un'ora. Comunque è leggero, cioè è bello, ha un bel ritmo. E qua in fondo abbiamo aggiunto anche una parte scritta da Roberta su di lei, che è quella di Roberta, sì, e praticamente lei alla fine sì, letto, si alzerà, sarà nel pubblico e si alzerà come se fosse una che okay, va sul palco e facciamo, legge facciamo, il suo testo. Un po' di trucco finito così. Lei c'è un video che abbiamo registrato ieri io e Mod, lui registra ha fatto delle letture e poi Mod ci legge sopra e poi legge l'ultima frase, la recita contemporaneamente entrando sulla scena e da lì con la chitarra acustica comincia a cantare, a suonare, si sta mettendo a farlo con Roberta perché entrambi hanno contatti di ballerine africane, quindi sono una ballerina africana che fa sta roba nero, vabbè, insomma, sì, tra probabilmente okay. C'è questa ballerina che mentre lui suona e canta viene un'ora chiude ballando, hai visto? No? Cioè da capire dove inserire Giacomo Verde lui mi ha mandato il testo completo del libro. Senti, già allora su Giacomo però potremmo fare un'altra cosa, perché invece di fargli fare il teleracconto, che lui mi ha detto, io gli ho dato la geocometra, si ho letto, però cazzo di sé, dovrei pensare di più, non viene in mente niente adesso. Ma può sceglierne un altro? No, aspetta, fatemi dire, cazzo, invece di fargli fare un teleracconto, che è una roba comunque da costruire, per esempio, lui potrebbe fare un'altra cosa, potrebbe fare dei videosondari. Sì, sondaggi su tutto o una parte dello spettacolo, non sarebbe male. No. In questo modo ci mette Giacomo Verde, il nome ce l'hai. È meno innovativo, ovviamente. Però cazzo, no, perché fare un teleracconto obiettivamente, certo, ho capito, sì. È più complicato. Cioè, lui, con tutte le robe che c'ha da fare. Sì, ma ha detto lui, perché non posso fare il sondaggio? Ho detto, ma sì, fai il sondaggio, ho detto adesso ne parliamo, ma. Perché sarebbe più semplice, insomma. Allora, il nome ce l'abbiamo. Questo è mio. Il nome ce l'abbiamo e possiamo usarlo, non farà un teleracconto, però. Il workshop potrebbe farlo sabato, non sabato, la mattinata, per lui il 27 c'è ancora una roba. Io mi sono messo con in parallelo lui e Mancuso hanno invertito le due giornate, per cui Mancuso. L'hai sentito? Sì. No. Allora Mancuso farebbe venerdì. Ma non chiamato? Io aspettavo che mi chiamasse lui. E chiamatelo voi, cazzo. C'ho il numero, tu non hai il numero di Mancuso? Sai che mi sa che non ce l'ho neanche io, adesso vabbè, comunque ce l'ho, te lo do. Però comunque vediamo tra tutti i marchi che ho. Avrei il salto così, che era un modo più facile, che non dovrebbe esserci. Io comunque gli ho dato tutto, dato i miei numeri di telefono, tu. Sì. Non ce l'ho. Comunque vabbè, Giacomo farebbe il workshop al sabato. Al sabato, così almeno gli concentri tutto e poi dopo lo sanno. Io gli ho mandato un'email, sarebbe un workshop sulla Telestreet, okay. Che diventa anche una cosa molto pratica. Sì, benissimo. Lui comunque l'ha già messo nel suo corpo. E poi la presentazione di archivismo tecnologico anche molto stringata. Sì, lui questo l'ha già messo dentro al suo. Mentre al suo programma. Per la mostra invece. Chiedo a Marco Puzzi se ci aiuta a vedere un po' di persone. Comunque io adesso vi volantino a tutti questi livelli, secondo chi è, me. Che è? La mostra di questa edizione volevamo farla molto più sul digitale. Di solito ci sono quadrati, robe così. Quindi noi non possiamo fare. Se riusciamo a mettere. Senti, questa qua. Che è sta lista? No, me la dico ancora, non capisco. Vabbè, mi sa, non sarà TL. Non lo so, non capisco. Perché c'ha un programma tutto precisino, tutto. No, perché CL ha fatto il suo programma, sono tutti sulla stessa paglia e lei non c'è. E lei non c'è, mi sarà una. Non c'è un'altra. Candida a applicare i suoi. Comunque è una di design, design non c'ha tantissimi studenti. Però comunque c'è anche Luca di. Ah no, Luca alla fine non ha le firme. Allora chi è? Insomma, di voi chi c'è? Ci sei io, tu e. Fabio e Ale. Tu Fabio e Ale. Ma Ale è di qua? Sì. Quindi tu sei di scenografia e Ale è di qua. Sì. Ma siete gli unici tre in tutta Brera? Di Brera 1 c'è anche un bel gruppetto di scultura che c'è dentro la pazza, però oddio la pazza la resta. Quella di scultura, sta Silvia qua, che c'è una si voleva fare le regole per noi, voleva farci istituire i controllori dell'auletta, allora ci hanno mandato. Ma tu devi star fuori, preso il cantiere, gli avevo fatto un'urlata, madonna. Infatti da quel giorno mi telefona tutti i giorni. Perché non è CL, insomma, no, no, è normale. Lei è il capo di quel gruppo. Sì, va bene. Ma sì, cioè, questa qui è già cioè, Sara Romani, che non so chi sia. Questa voglio capire. Nemmeno lei è didattica. Questa è scenografia, è come è al corso tuo. Allora è CL. Questa è scenografia. Sicuro che scenografia c'è. Ma se c'è una spiegazione, comunicazione didattica non so, cioè, comunque tu, diciamo, le lezioni sono uniche e poi si mettono tutti dentro un calderone. 11 sono più? 11 sono quelli che vengono eletti, però non sono. Allora, 11 eletti su 11 eletti. Cioè, e bastano i candidati ufficiali? No, i candidati ufficiali sono una ventina. Una ventina. Perché sono, se non sbaglio, 8 UCL, poi 3, 5 o 6 di scultura. Senti, la settimana prossima, ogni giorno torniamo. Bisognerebbe fare in modo di ridurre CL, cioè tutto lì. Io stavo più cercando di immaginare una roba per cui in cortile a Brera 1 si organizza una sorta di gemma per cui si dipingono quelle piazze grigie a tempo, la scusina che rompe anche il cuore, la palazzaggia, qualcuno che suona una strumentica e speriamo che con altro materiale facciamo una sorta di banca. Ma magari anche quello, sì, guarda, io ho immaginato che vado in quello perché tra quelli di pittura eccetera eccetera una roba che si tira su, sì. Per qua bisogna capire un'altra roba che magari non fare la salita assemblea, sinceramente non sono andato. No, facciamo le altre cose, per me sicuro, bisogna immaginare un va bene. Tra l'altro oggi il promessa che è uscito una che dopo i consiglieri di Roma siamo, ha detto che siamo guerrieri, siamo le due guerrieri, non sono in nessuna rappresentanza. Tanto dice, esatto, dice quando poi si vota loro non ci sono mai. La Sapienza si è presentata come onda, ha preso una patocca, mica sta scemi che ci stiamo. L'altra volta siamo all'altro. Non so mai perché mi mettono sempre lì, comunque a cazzo finché non sto cercando la una magna. Ha fatto Maroni che invece, Maroni invece non si può riprendere il fatto di Milano, di AU dentro all'università che fa i banchetti. Siamo all'altro piano. Ah, ecco perché ho sbagliato, perché avevano sbagliato piano. Maroni che dice la polizia. Chi è che l'ha detto questo? Maroni. La polizia aumenta la pensione delle università, i mancanti di AU vengono ribaltati, hanno fatto botte. Mi raccomando, la dico. Di scienze politiche, che comunque ha anche il suo peso quando prepara la... Ha dichiarato che è contro quei pagliacci di azione universitaria. Che chi è il preside? Sì, è il preside di scienze politiche. Sapete, domani c'è il Senato Accademico Statale in cui decidono che misure disciplinari prendere contro... Ah, addirittura che misure disciplinari prendere contro... ...dell'onda e... insomma, noi immaginavamo che sarebbe seguire un'iniziativa un po' una pretesa. Ma non c'è sì, no, ma l'abbiamo... L'avete fatto una volta, ma adesso basta, cazzo. Voglio fare un comunicato, cioè, la schienatoria è un po' se ci sono comitati, consigli accademici. Ma non l'ho spento. Bello, ma che...